America 24 di Mario Platero. They're gonna perform again because they just won. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Avete sentito l'annunciatore che proclamava Memphis come miglior musical dell'anno, di questa stagione. Poi, sempre per i Tony Award, che sono poi gli Oscar per il teatro e per Broadway, Red, grandissima pièce teatrale, ha vinto come miglior play, come miglior dramma. Red racconta la storia del pittore Mark Rothko. Dove è avvenuto tutto ciò? A Radio City Hall, grande salon teatro newyorkese nel cuore di Rockefeller Center, qui a pochi isolati dal nostro ufficio. E lì appunto che Broadway si è autocelebrata con questo grande evento, questi grandi premi. Però ieri è finita che a Broadway ha vinto Hollywood. Denzel Washington, Katherine Zeta-Jones, Scarlett Johansson hanno fatto razzia di premi come migliori attrici, attrici per teatro classico, per musical, attrice non protagonista nel caso di Scarlett Johansson. Ecco, dunque, Memphis, vi dicevo, ha vinto. Che cos'è questa storia? Beh, una storia d'amore fra un bianco e una nera negli anni 50. Questa storia avviene sullo sfondo dell'esplosione del rhythm and blues. Huey Calhoun è un disc jockey bianco, si innamora di tutto quello che non dovrebbe, il rock and roll, intanto che in quel momento sta esplodendo, e poi anche di una cantante di colore. Il musical è ispirato a una storia vera, quella del disc jockey Huey Phillips, primo disc jockey a proporre black music in una radio bianca a Memphis. Memphis ha battuto tra l'altro in volata Fela, la storia della superstar nigeriana Fela Anikulapo Kuti, e poi il musical dei Green Day, American Idiot, Million Dollar Quartet, una jam session immaginaria tra Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins e Jerry Lee Lewis. My mother always says, man gives the award, God gives the reward. I guess I got both tonight. Avete sentito Denzel Washington, premiato come miglior attore protagonista in Fans? Beh, nel suo discorso dice di essere stato premiato in due modi, dal comitato ma anche dal cast, ma ignora il terzo modo, quello più importante, quello dei quattrini, perché in realtà Fences ha sbancato in tutti i sensi. Intanto la protagonista femminile Viola Davis ha vinto anche come miglior attrice in un play, però c'è la verità che lo spettacolo ha fatto anche un record di incassi. Racconta la storia di uno spazzino che voleva giocare a baseball ma non poteva farlo perché di colore. Quando finalmente i neri vengono ammessi nella Baseball League, beh, lui è troppo vecchio e quindi non potrà più giocare. Scarlett Johansson, invece, musa ispiratrice di Woody Allen, al suo debutto a Broadway ha vinto per la performance da attrice non protagonista nel revival di Arthur Miller, A View from the Bridge, vista dal ponte. Katherine Zeta-Jones, col marito Michael Douglas in platea, ha vinto come miglior attrice nel musical A Little Night Music. What have you done? What have you seen? Where have you earned the right to exist here with me and all these things you don't even understand? Red, oh, you want to paint the goddamn thing? Go ahead. Here, here's Red, I'm Red, I'm Red. Ecco, avete ascoltato invece un monologo di Alfred Molina in Red. Red che ha conquistato ben 5 premi, 5 Tony Awards su 6 nomination. È un dramma, devo dire, davvero straordinario, e secondo me Alfred Molina avrebbe benissimo potuto prendere il Tony per miglior attore, perché è stata la sua un'interpretazione da brivido. Comunque Red vince come miglior play e come miglior attore non protagonista con Eddie Redmayne, un attore giovane che fa da allievo a il pittore Mark Rothko, appunto Alfred Molina. È una storia, devo dire, molto molto bella, che penetra poi a fondo un mondo newyorkese sconosciuto al grande pubblico, quello del rapporto fra artisti e architetti, fra consumo e arte pura, nel momento in cui sta per aprirsi uno dei grattacieli classici di New York, quindi alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, il Seagram Building, che è un'opera straordinaria di Mrs. Van der Rohe, e il grande ristorante dei potenti, il Four Seasons, per cui Rothko doveva decorare, doveva consegnare 4 quadri. Poi alla fine rinuncia, preferisce donarli a un museo e straccia l'assegno. Poco dopo commetterà suicidio. Allarme America, possibile che dall'Europa la speculazione negativa si sposti da questa parte dell'Atlantico? Io non ci credo, però questa potrebbe essere una settimana importante sul piano borsistico. Se le cose andranno bene, forse possiamo immaginare di essere usciti dalle secche delle ultime settimane. E qualcuno dice però che ci sono elementi che potrebbero continuare a prolungare così questa percezione di crisi. Quali sono? Beh, intanto il disavanzo pubblico sul PIL resta del 10% e sono in pochi a credere che Barack Obama riuscirà a fare qualcosa di molto concreto l'anno prossimo. Si troverà alla vigilia di un anno elettorale importante perché riguarda la rielezione alla presidenza. Poi l'economia resta incerta. In passato, in uscita dalla recessione, c'è stata una ripresa molto più forte. Altri due punti: i municipalities, i cosiddetti munis, le obbligazioni emesse dalle municipalità americane, sono un po' in crisi. Warren Buffett ha lanciato un allarme. Sappiamo che i rendimenti restano più o meno positivi, siamo al 3,15 contro il 3,3 dello scorso aprile, dunque c'è stata una diminuzione, quindi una dimostrazione di maggiore sicurezza, però sono aumentati i premi per le assicurazioni, sono aumentati addirittura del 16% la settimana scorsa. Questo potrebbe essere un problema in divenire che vi segnalo. Infine, la caduta di borsa che abbiamo avuto nelle ultime settimane, che tutti ricorderete, è la seconda più forte dagli anni 50 e comunque la seconda più forte in 80 anni. Abbiamo perso il 12,4% in 42 giorni a partire da aprile. Il record precedente, anzi il record che resta, è quello degli anni 50, quando la borsa perdette il 13,6% in 31 giorni, subito dopo che la Corea del Nord invase la Corea del Sud, aprendo le porte poi alla guerra di Corea. Qualcuno si domanda se questo secondo record non sia il preambolo a quello che capitò nel 1981, quando sempre a partire da aprile la borsa poi continuò a perdere con alti e bassi fino all'autunno per 151 giorni, con una diminuzione complessiva del 19,1%. Speriamo ovviamente che non sia così. Infine volevo dirvi di Barack Obama. Il presidente americano torna nel Golfo del Messico, la sua offensiva di immagine per ragioni di politica interna continua, andrà in Alabama, andrà in Mississippi, poi mercoledì l'incontro con i vertici del British Petroleum. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Come potete immaginare, la voglio dedicare a Memphis, questo musical che ha vinto un po' di tutto. E la dedico in particolare a una canzone, Colored Woman, interpretata con una voce spettacolare da Montego Glover. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.